Benvenuti a tutti, puntata numero 25 di NBA Week. Procedono le semifinali di conference, per qualcuno anzi si sono già concluse. Guarda caso si tratta di quelle due squadre che in tanti, diciamo quasi tutti, ad inizio stagione pronosticavano come probabili finaliste per il terzo anno consecutivo, e sarebbe tra l'altro la prima volta nella storia della Lega. Si tratta dei Golden State Warriors ad ovest e dei Cleveland Cavaliers ad est, entrambe con un record di 8 vinte e 0 perse in questa edizione dei playoffs. Entrambe qualificate nel minor tempo possibile grazie a due sweep, cioè a due serie vinte per 4-0, due squadre a testa spazzate via senza conoscere sconfitta. Al primo turno ricorderete i Cavaliers si erano imposti pur non stravincendo mai nella singola partita sugli Indiana Pacers di Paul George, mentre i Golden State Warriors lo hanno fatto passeggiando letteralmente sopra Damian Lillard e i Portland Trail Blazers. Avevamo lasciato entrambe le squadre la settimana scorsa a condurre sulle dirette avversarie di semifinale di conference. Cleveland conduceva per 1-0 su quei Toronto Raptors che lo scorso anno avevano affrontato in finale di conference guadagnandosi la finale con un 4-2, conseguenziale a due sconfitte in Canada. Gara 2 del 2017 si è risolta per 103-125, con un ritmo distruttivo dettato dai campioni in carica fin dalla prima fazione di gioco, conclusa in un convincente vantaggio e decisa poi nel parziale del terzo periodo al rientro dalla fine del primo tempo. I Cavaliers la chiudono con 18 triple di squadra e soprattutto con la prestazione mostruosa del giocatore che sta dominando personalmente questa post-season. Si tratta di LeBron James e chiude questa partita con 39 punti, 6 rimbalzi, 4 assist, 3 recuperi, 4 su 6 da 3 punti, 10 su 14 al tiro. Dall'altra parte, i segnali non sono dei migliori. DeRozan chiude con un pessimo 2 su 12 dal campo. Si salva un Ibaka da 16 punti, un Valanciunas che ne mette 23 dalla panchina e un Kyle Lowry da 20 punti e 5 assist, che però si infortuna durante il match e sarà costretto così a saltare le due partite casalinghe che avrebbero potuto rappresentare la speranza di riscatto per i Raptors. Gara 3 e gara 4 infatti scivolano via piuttosto facilmente, per quanto Toronto provi a fare opposizione grazie a due prove mostruose di DeMar DeRozan, che in ogni caso ha comunque un po' sofferto per tutta la serie la difesa dei campioni in carica, in particolare l'applicazione ai limiti dell'ossessivo di un J.R. Smith, stavolta apprezzabile in un ruolo tecnico a lui solitamente inusuale. Gara 3 vola via 115-94 per i Cavs, che si portano quindi sul 3-0, un punto notoriamente di non ritorno per i playoff NBA. 35 punti, 8 rimbalzi e 8 assist per il solito spaziale LeBron James. 13 triple di squadra, tra le quali ne spiccano 4 per Kyle Korver, contro il 2 su 18 là dietro l'arco di Toronto. DeRozan prova a tenere con i suoi, chiude con 37 punti, ma i Raptors imbarcano acqua principalmente nell'ultimo quarto, stradominato da Cleveland per 36-17. Gara 4 di domenica sera è solo ed esclusivamente la partita dell'orgoglio canadese, che comunque i Raptors non riescono a vincere per provare ad allungare un minimo l'epilogo stagionale. Finisce 109-102 e nuovamente è strepitoso LeBron James che chiude con 35 punti, 8 rimbalzi, 9 assist e 5 triple. Il momento decisivo della gara arriva nell'ultimo periodo e il protagonista è un Kyrie Irving che si prende sulle spalle la responsabilità del parziale e dei canestri che affossano definitivamente DeRozan e compagni. La point guard dei Cavs chiude con 27 punti e 9 assist e anche se talvolta il predominio di LeBron porta quasi a dimenticarcelo, sottolinea con una prova magistrale soprattutto quando conta che c'è anche lui. Importante gara anche per Kyle Korver, potenzialmente acquisto dell'anno nel mercato di metà stagione per l'importanza che è destinato a ricoprire in un sistema di gioco come quello di Tyronn Lue, dove spesso James è accentratore di gioco a tiri raddoppi e predilige scarichi sul perimetro dove è fondamentale alla ricezione essere un infallibile giocatore da catch and shoot. Korver segna in questa partita 4 triple su 6 tentativi, chiude con 18 punti totali e anche 5 rimbalzi. Sconfitta che apre una inevitabile estate di ricostruzione e rifondazione probabile per i Raptors, che vedranno scadere il contratto del buon Serge Ibaka, acquistato per rinforzare all'ultimo tuffo una squadra apparsa poco convincente fin da subito in questa stagione, ma che non è stato sufficiente. Già comunicata la volontà di Kyle Lowry di testare la free agency nell'estate ventura, e quindi probabile partenza per altri lidi all'arrivo potenziale di offerte importanti. Ricostruire su DeRozan è l'imperativo, magari ponendo come punto fisso al suo fianco un Valanciunas che comunque ha chiuso i suoi playoff con una semifinale di conference personalmente positiva. Ad ovest situazione analoga a livello di serie per i Golden State Warriors e gli Utah Jazz. Le speranze a Salt Lake City erano pressoché nulle rispetto al passaggio del turno. Realisticamente in fase di presentazione della sfida potevamo giusto augurarci che i Jazz potessero trovare lo slancio per vincere almeno una gara, considerando i punti di forza a disposizione come Gordon Hayward e Rudy Gobert. In realtà la macchina degli Warriors è stata ancora una volta impeccabile e le tre vittorie avvenute nell'ultima settimana lo dimostrano ampiamente. In gara 2 i Jazz partono male subito nel primo quarto, i Warriors tirano quasi con il 50% dal campo e il 45% da 3. Damon Green mette 21 punti con 5 canestri da dietro l'arco su 8 tentativi, Kevin Durant 25 con 11 rimbalzi e 7 assist, Steph Curry 23 con 5 triple. Ottimo contributo della panchina, in particolare da Andre Iguodala che chiude con 10 punti, il resto si gioca al solito il garbage time. 33 punti Gordon Hayward e 16 con 16 rimbalzi per Gobert non bastano per Utah, considerando anche la non presenza di un George Hill infortunato. La serie muore definitivamente in gara 3 a Salt Lake City, vinta dagli Warriors stavolta soffrendo un minimo per 102-91. I Jazz rosicchiano il vantaggio acquisito dagli Warriors nel primo quarto, la partita si fa nervosa in particolare per Draymond Green, che comunque guida la squadra di grinta nel parziale che la decide durante l'ultima frazione di gioco. Trattandosi della gara più difficile della serie, serve una super performance per la squadra ospite per restare in partita. Ci pensa Kevin Durant, che con 15 su 26 dal campo e 4 su 8 da 3, gioca la sua miglior partita fino ad oggi in questa edizione dei playoffs, chiudendo con 38 punti e 13 rimbalzi. 23 punti anche per Curry, che però tira maluccio da dietro l'arco. Ancora una prova in colore per Klay Thompson. I Warriors chiudono con il 30% di squadra da 3, ma nonostante questo e nonostante il quintetto di Utah tutto in doppia cifra con un Hayward a 29, si portano a casa il 3-0 nella serie di prepotenza. A questo punto gara 4 è pure semplice formalità, così come lo è stata a Toronto e Cleveland ad est. Finisce 121-95 e gli Warriors dominano a mani basse, chiudendo già il primo quarto in vantaggio per 39-17. Un po' meglio Klay Thompson con 21 punti, ma solo 1 su 3 da dietro l'arco. 4 triple e 30 punti per Curry, 18 per Durant, tripla doppia per Draymond Green con 17 punti, 10 rimbalzi e 11 assist. Passeggiata per Golden State, triste epilogo per Utah, che potrebbe perdere in estate la sua stella riconosciuta, col Gordon Hayward che chiude l'ultima gara della sua stagione con 25 punti e 4 su 7 da 3 punti. Due parole proprio sui Jazz. Squadra quadrata che non è assolutamente dispiaciuta in questa stagione. Nell'epilogo diretto, come detto, ha indubbiamente pesato l'infortunio di George Hill. Adesso l'imperativo è quello di rifirmare in ogni modo Gordon Hayward, che quest'estate dovrebbe utilizzare la player option e quindi testare il mercato della free agency. Perdere lui per i Jazz sarebbe qualcosa di piuttosto devastante. Riuscissero a confermarlo, considerando l'apporto di Gobert e l'ottimo contorno creatosi, si potrebbe ricostruire bene, o perlomeno proseguire nella crescita. Importante sarebbe portarsi a casa un giocatore di prima fascia da accompagnare al leader difensivo Gobert e all'ottimo Hayward, magari utilizzando Derek Favors come pedina di scambio, magari al rifirmare di Hayward stesso, liberandosi anche dal contratto di Hill, anche lui free agent, per provare a portarsi a casa magari proprio quel Kyle Lowry che sembra in fuga da Toronto. Si tratterà sicuramente di fantabasket, perché comunque Salt Lake City non è esattamente la città più ben voluta dei giocatori della Lega, ma per sperare di confermare e migliorare le prestazioni di questa stagione, i Jazz hanno bisogno di fare alcuni accorgimenti estivi, confermando i due leader attuali della squadra nei due lati del campo disponibili. Andiamo avanti, tra Celtics e Wizards nella Eastern Conference, serie in totale equilibrio al momento in cui stiamo registrando, al solito si tratta di mercoledì pomeriggio. La decisiva gara 5 che determinerà un vantaggio di una delle due squadre si sarà già conclusa al momento in cui starete ascoltando questo podcast. Le mie previsioni vedono una serie che si concluderà probabilmente in 7 partite, con il vantaggio del campo rispettato in ognuna delle ipotetiche 3 gare a venire. Nella capitale i Celtics sono apparsi totalmente trasformati, soprattutto per quanto riguarda il leader conclamato della squadra, il piccolo Isaiah Thomas, che dopo aver chiuso con 53 punti in gara 2 ha fatto segnare in tabellino solo 13 punti nella pesante sconfitta di gara 3 e un'altra prestazione sottotono con 19 punti in gara 4. Al termine di quest'ultima, quella della parità nella serie raggiunta per i Wizards, lo stesso Thomas si è lamentato a lungo per la durezza dei contatti subiti, richiamando l'attenzione degli arbitri. Indubbiamente la flebile stazza del playmakerino bostoniano potrebbe attirare una qualche occhiata di riguardo da parte della terna arbitrale, ma le due partite giocate nella capitale si sono distinte per una fisicità piuttosto dura, a rinnovare il pessimo sangue che scorre storicamente tra queste due formazioni. Gara 3 da questo punto di vista è stata terribile, con tecnici ed espulsioni che sono fioccati, in una partita dove il nervosismo, soprattutto tra i Celtics, ha regnato sovrano. Qui la parte del cattivo di turno l'ha recitata perfettamente Kelly Olynyk, il ragazzone canadese che ha passato i suoi 12 minuti in campo, per la cronaca un punto, un rimbalzo ed un assist per lui, menandosi sotto canestro un po' con tutti, principalmente con Kelly Oubre Jr. Proprio quest'ultimo, in relazione ad un blocco piuttosto forte di Olynyk, ma forse non troppo attivo nelle intenzioni, ha perso la testa stagliandosi contro lo stesso e venendo espulso dalla terna arbitrale. Tra l'altro i contatti tra i due si erano avviati precedentemente. Ma questa è stata solo la punta di... di un iceberg che più avanti ha coinvolto anche il mai troppo sereno Brandon Jennings contro un Terry Rozier con il quale si erano già verificate storie tese in passato. La partita è stata veramente tosta, con i Wizards partiti subito forte ed in modo nettamente determinato, decisi a non lasciarsi sfuggire la serie di mano tra le mura amiche. 17-39 per Washington nel primo quarto, malgrado un Bradley Beal latitante a livello di precisione dal campo, con un Gortat granitico da 13 punti e 16 rimbalzi totali, ed il solito John Wall da 24 punti e 9 assist. I Celtics chiudono la gara tirando con il 35% dal campo e il 31% da 3, e gli unici due che sembrano reggere un minimo le botte e la sfuriata dei Wizards sono Al Horford, soprattutto le botte, e Joe Crowder. A tratti la partita assomiglia ad una sfida di wrestling, soprattutto sotto canestro. Malgrado, forse soprattutto per questo, riesce a mettersi in mostra anche il solito Bojan Bogdanovic, che chiude con 19 punti e 4 triple dal perimetro, ma anche 10 rimbalzi. Personalmente ritengo che l'agonismo vecchia scuola non guasti mai nello sport e che sia spesso piacevole essere spettatori di quel fuoco di sfida che oggigiorno si è quasi perduto nell'esaltazione del fair play o quantomeno nell'inasprimento delle regole che l'NBA ha attuato in uscita dalle ere Bad Boys e era Knicks dei tempi di Pat Riley. La critica a livello di gioco è stata ovviamente unanime e principalmente scandalizzata proprio dal numero di colpi proibiti volati in questo match. Niente ovviamente a che vedere con le infiammate e sempre godibili da rivedersi per il sottoscritto sfide anni 90 tra Bulls e Knicks, oppure tra Knicks e Pacers, oppure tra Knicks e Heat. Anche un personaggio come Draymond Green, stavolta in veste di opinionista e non esattamente il giocatore esempio di correttezza nella Lega, si è sentito in diritto di criticare le scorrettezze del povero Olynyk, divenuto il capo espiatorio della situazione. Bizzarro pensare proprio a Draymondo che si mette a far la morale, memoria anche del calcio, negli attributi del povero Steven Adams nelle finali di conference dello scorso anno, oppure del recentissimo show offerto nello Utah per la gara 3 appena trascorsa. Tuttavia, con il rancore a mille, i Celtics sono tornati nello spogliatoio con la coda tra le gambe, sconfitti per 116-89, una discreta patosta replicata qualche giorno dopo, con una gara 4 conclusasi 121-102 per gli Wizards. Stavolta il parziale devastante avviene nel terzo periodo, che per la squadra di casa si chiude 42-20. I Celtics stavolta tirano meglio attestandosi intorno al 45% dal campo e anche da dietro l'arco, con un Thomas che comunque tira con 7 su 14 dal campo per 19 punti totali, ma 6 palle perse. Prestazione convincente per il Rozier furioso della partita precedente, stavolta con 16 punti dalla panchina, 14 anche per un redivivo Olynyk e 11 per Al Horford. Dall'altra parte, all'ennesima prestazione super di John Wall da 27 punti, 12 assist e 5 recuperi, partecipa stavolta anche un Bradley Beal da 29 con 11 su 16 dal campo. 18 anche per Otto Porter, 13 dalla panchina per Bogdanovic, 16 per un Markieff Morris al centro di una delle bizzarre teorie cospirazioniste del momento, laddove qualcuno ha detto che in sua sostituzione i Wizards starebbero usando il gemello Marcus in forza a Detroit. Roba tipo quelli che dicono che Bob Dylan è morto 3 volte e che la stessa sorte sarebbe toccata a Paul McCartney dei Beatles, che è ben altra persona del Paul che conosciamo e vediamo, per la verità sempre più rincoglionito, nelle apparizioni odierne, seppur rare. Kelly Oubre non ha partecipato stavolta alla festa, espulso per la reazione di gara 3 e chissà, magari anche per questo. Il tanto vituperato Olynyk è riuscito a chiudere con 14 punti la sua partita, apparentemente in modo un tantino più sereno della precedente. In ogni modo, serie nuovamente in equilibrio. C'è tanta curiosità di vedere che tipo di Celtics scenderanno in campo al TD Garden e soprattutto se i Wizards si trasformeranno di nuovo dalla tigre famelica apparsa nelle ultime due sfide tra le mura amiche nell'agnellino da trasferta per loro poco auspicabile. Voi saprete già com'è andata e soprattutto saprete già se il mio pronostico, che vorrebbe il fattore campo sempre rispettato, compreso nell'eventuale gara 7 di questa serie, sarà già stato bruciato o meno. Ad ovest, Spurs e Rockets si contendono l'approdo in finale di conference pagando dazio con tutte le sfortune del caso. Tony Parker abbandona la serie e la stagione dopo un grave infortunio in gara 2 per San Antonio. Quasi di conseguenza, Houston dovrà fare a meno di un giocatore ad oggi fondamentale nella loro cavalcata playoffs, quel nenè ilario decisivo contro OKC, rappresentante uno dei soliti tre panchinari inseriti da coach D'Antoni nelle partite dei razzi texani. Con un roster già abbastanza poco profondo, con solo 8 giocatori in media in rotazione, la perdita di una pedina del genere potrebbe costare la serie o eventualmente le speranze nel proseguo per i Rockets. Tuttavia c'è prima da pensare a vincere questa serie bellissima, in cui le due squadre si rincorrono partita dopo partita. Con il 103-92 di gara 3 a Houston, San Antonio si porta in vantaggio 2-1, trovando uno splendido Aldridge da 26 punti, accompagnante il solito Kawhi Leonard da 26, 10 rimbalzi e 7 assist. Senza Parker, Ginobili latita, ma ci pensa un Perry Mills da 15 punti proveniente dalla panchina ad aiutare i suoi contro un Harden da 43 punti, coadiuvato dai 17 di Ariza e dai 12 con 15 rimbalzi di Capela. La risposta dei Rockets si manifesta nella sfida seguente, 125-104 in gara 4, con una super partenza nel primo periodo confermata dallo strappo della squadra di casa nel terzo. 28 punti per Harden, 22 dalla panchina per un Eric Gordon con 6 su 9 da 3 punti, quasi il 53% dal campo al tiro per i Rockets con 19 triple segnate su 43 tentativi. Si torna quindi a San Antonio per la gara chiave della serie, quella che regalerà in conseguenza il potenziale match point ad una delle due squadre in quel momento pari sul 2-2. Gara 5 tra Spurs e Rockets è intensa, bellissima, incarna tutto lo spirito delle partite decisive nei playoffs NBA. Iniziamo dalla fine dei regolamentari. Con Houston in vantaggio nell'ultimo quarto, sostenuta da un Super Harden, San Antonio riesce a ritrovare la spinta per tornare ad impattare sul 101 pari, ad una manciata di secondi dalla fine, con il layup di uno strepitoso Manu Ginobili. Per la verità, nei secondi a seguire il barbone riesce a commettere falli in attacco, ma l'eventuale tiro della vittoria di Perry Mills, che tra l'altro segna, risulta a tempo scaduto. Si va così al supplementare, con un Kawhi Leonard acciaccato alla caviglia, costretto al riposo in panchina. San Antonio deve far fronte all'evidente ennesimo imprevisto, aiutato dal fatto che comunque la benzina è quasi terminata e anche i Rockets non sembrano troppo star meglio. Il cuore però di Patrick Beverley riporta Houston avanti con una tripla a 2 minuti dalla fine. A questo punto però c'è il colpo di coda degli Spurs, che con Simmons la lunetta prima e la tripla dell'eroe finale Danny Green si riportano in vantaggio. Houston, però, si riporta subito in vantaggio di conseguenza, con la tripla di Ryan Anderson, che chiude con 19 punti totali la sua gara. Una gara dove per i Rockets solo lui e un deludente Lou Williams escono dalla panchina a supporto di uno starting five che vede Gordon nel backcourt a supporto di Harden. Da questo punto di vista, gli Spurs hanno una rotazione maggiore, seppur obbligata dalle defezioni conosciute e momentanee. Danny Green veste di nuovo i panni del supereroe, segna in penetrazione con il fallo e San Antonio si porta così avanti sul più 3. Dall'altra parte, dopo una contesa vinta da Houston, la palla giunge nelle mani di James Harden, che comunque chiude con 33 punti, 10 rimbalzi, 10 assist, ma anche 9 palle perse la sua partita. Prova inizialmente a cercare il solito fallo da furbetto, trovandosi Ginobili in arrivo davanti a lui in raddoppio. Salta immediatamente dopo Ginobili, si appresta a lanciare in aria quello che appare un ottimo tiro da dietro l'arco per il potenziale pareggio. Manu Ginobili è al solito geniale, lo stoppa da dietro in modo pulito, essenziale, nitido, senza che Harden si renda conto che lui sta correndo alle sue spalle per bloccare il tiro del potenziale pareggio. La testa di Ginobili si dimostra ancora una volta molto più avanti di quanto siamo abituati ad aspettarci. Chiude con 12 punti, 7 rimbalzi e 5 assist in 32 minuti di presenza decisiva in campo. Lo aspettavamo tutti al salire in cattedra, a maggior ragione dopo la dipartita di Tony Parker per la stagione. Spurs a questo punto sul 3-2 nella serie, una serie destinata adesso a tornare a Houston e senza sorprese del caso possibili di probabile soluzione solo in una presumibilmente spettacolare gara 7. Staremo a vedere, lo racconteremo nella prossima puntata di NBA Week, la prossima settimana al solito seguiteci tutti i giovedì alle 21.30 nel flusso streaming di Radio Big World, a partire dalla mattina dopo in podcast sul SoundCloud di Radio Big World e su YouTube nel canale di Belli 13. Grazie ancora per l'ascolto, ci sentiamo la settimana prossima con i playoff NBA. It's over, ladies and gentlemen.